Nico. Ciao, oggi siamo con Emilio Paranoico, che fa diversi progetti, tra cui Daphne, Santa 6CL, che oggi siamo venuti a un concerto, Emilio Paranoico come rapper e anche i beat, techno. Project come produttore anche, ma è più una roba scherzosa, cioè non scherzosa, ma è più un hobby la produzione, non faccio produzioni serie. Io ho sentito dei beat techno su SoundCloud molto belli. E vabbè, iniziamo almeno quello che chiediamo a tutti, cioè come hai iniziato a fare musica. Ok, allora avrò iniziato che ero alle elementari più o meno, no? Cioè i miei ascolti arrivano per lo più dalla macchina dei miei genitori, dove sentivo un sacco di rock, quella roba lì. Ho sempre voluto suonare, da che mi ricordo, quando ero boccio avevamo un pianoforte in casa e provavo a strimpellarci, non ci sono mai riuscito, abbiamo avuto delle chitarre classiche rottissime, però non sono mai stato realmente portato, né ci ho mai avuto i soldi per prendere lezioni, per cui ho iniziato a rappare un po' così, scoprendo Fabri Fibra alle elementari, con Tranne Te, poi Bugiardo e poi tutto il resto, e da lì mi sono infuotato con l'hip hop, ho iniziato così con le battle, e, insomma, facendo freestyle, facendo palchi come solista. Anzi, avevo un progetto prima, mi chiamavo B-Man, che in realtà nei 6CL è tipo, vabbè, figo da dire, Mario Draghi, tutti pensano L-Man è una pallottola nel cranio di Aldo Moro, in realtà dico B-Man è una pallottola nel cranio di Aldo Moro, che era il mio vecchio K.A. e poi è andato a scomparire, è diventato un nome per gli amici, per cui questo, ho iniziato così. So che state lasciando un disco adesso con le 76CL, so se ci vuoi dire qualcosa. Che è diverso dai vecchi? Non lo so, siamo, è stato un parto, questo posso dire, perché siamo, insomma, l'ultima uscita vera è Discount, che è 2022. No, non Discount, Caballero. Caballero forse è inizio 2023. Penso sì, 2023, per cui poi dei pezzi di sto disco li abbiamo portati live una vita, altri ci siamo arrovellati e spaccati la testa, facevamo fatica a trovare una direzione, stavamo andando un po' a rilento, per cui ci siamo detti, buon fanculo, iniziamo a registrare, muoviamoci nell'ottica di concludere sta roba, per cui sono venuti fuori 8 pezzi che ci siamo arrangiati in sala prove, ne abbiamo scartati un altro po' ma non ci piacevano. È diverso, è più pensato, è più arrangiato, è un po' meno punk se si vuole, però ha molte influenze come sempre, non saprei dare una direzione, come sempre spazia dall'hardcore al post-punk, è più rock, è sicuramente più rock, ma comunque molto bello. Bene. Emilio Paranoico, un po' come nasce quel progetto? Emilio Paranoico nasce come side project quando suonavo nei 66CL, ai tempi facevo il barista, tornavo a casa sempre tardi, facevo fatica a dormire, c'avevo un po' di cazzi miei per la testa e oltre a quello avevo voglia di tornare a rappare, ma un po' senza la band, perché comunque fare crossover non puoi fare tutti quei tecnicismi, non puoi fare sempre quello che vorresti, fai una roba che ti piace, ma nasce dall'esigenza di fare una roba per i cazzi miei, un po' più personale anche, meno politica, passatemi il termine, poi i pezzi politici ci sono, ma c'è più di me e meno della politica e non ci sono i 6CL. Quindi anche più facile registrare forse, no? Sì, è molto più facile, poi io faccio tutto da solo. Allora, premessa, le produzioni non sono mie, perché tante volte la gente pensa che siano mie produzioni, io l'ho già detto più volte, che poi non venga fuori che mi accollo. Non sono mie, sono tutti type beat, a parte Dolce Vita. Ah, ok. E perché? Perché mi viene facile scrivere su delle robe al volo, è più semplice. Quando ho fatto sta roba, a me che cazzo me ne fregava della distribuzione, dei diritti d'autore. Sì. Comunque li ho pagati tutti, le licenze sono pagate. Quindi anche L, l'ultimo disco? Addirittura sono tutti free for profit. Okay. Sai che... Ma infatti, tipo la base di Stepper esce spesso su dei reel. È vero. Ogni tanto capita, c'è gente che mi scrive, ma ho sentito la base di Scusa per il sangue. Anche Scusate per il sangue è un type beat? Sì, anche Scusa per il sangue. Sai che quello pensavo di no. Perché no, io non so fare i rullanti così compressi, fighi. Però sto riprendendo in mano tutta la discografia con dei produttori. Ci sto lavorando con The Panic Attack per L, con Grabe per Grabe che cercheremo di intervistare se passa Bologna. Grande Grabbe, un saluto. Grabbe fortissimo, storico ormai dei beat. Madonna, specializzato in rapper col passamontagna. E per cui sto rifacendo la discografia, poi qualche mia produzione uscirà in futuro, però non riesco a scrivere sulle mie produzioni. Produco tanto, ma non sono in grado di fare quello che vorrei fare, in primis, non sempre, a volte ci riesco, ma comunque ho la melodia talmente in testa che non riesco a formulare altro al di fuori di quello che ho già fatto. Hai nuovi progetti futuri di cui ci vorresti parlare? Ne ho un po' in cantiere, appunto, tutta la discografia da rifare, che cambieranno i beat da zero, la riregistro, magari ci metto qualche sorpresa. C'è Ghigliottina che sta uscendo, con i Daphne, mio altro progetto, l'unico dove sono chitarrista, adesso abbiamo 7 tracce pronte e quando arriviamo a 10 registreremo. Comunque uscirà un sacco di roba, sta per uscire Ghigliottina però. Ok, sono contento, adesso sentiremo, quindi va bene. E vabbè, noi ti possiamo trovare su Spotify, SoundCloud, che andate a sentirlo su SoundCloud, che è davvero, è davvero, ci sono cose davvero belle. E vabbè, 66CL, Daphne, Emilio Paranoico, dai, Emilio Paranoico, cioè. Va bene, grazie per averci concesso l'intervista. Grazie a voi. Tengo il libretto rosso, mi calibretto a segni, mi spacco quando posso, solo per pochi soldi. Tengo il libretto rosso. Non bastano i soldi che prendi, il sangue che sputi, i sogni che lasci al mattino sopra il cuscino. Non basterebbe il piombo per sistemarli tutti, ne basterebbe uno per educarne 100. Mi manca il conto in rosso, non ho libretto a segni, ho venduto il mio basso al banco dei pegni. Tengo il libretto rosso. Moshpit, io non faccio gossip, scrivo dentro un cesso e sono stronzo come Joffrey, ti mangio come Jeffrey, toxic come Britney, piango come Jesse quando gli è morta Jane. Trapshit, volo come lo Sputnik, aspetto che mi lasci, vedi un po' te mi ci butti. Nesti, faccio pensieri brutti, cattivo come i Melvis, compravo i pezzi al Mart. Koski, l'ho letto Majakoski, schiaffo il gusto del pubblico, è normale se ti incazzi, è normale se mi schippi, se provi a censurarmi, provi a spegnermi il cervello come hanno fatto con Gramsci. Koski, povero Majakoski, scrivo testi petristici, provo a consolarmi, mi imbasso di così, senza una linea brick, posso andarci solamente con la sveglia lunedì. Tengo il libretto rosso, mi calibretto a segni, quando lo facciamo amore voglio che mi picchi. Sono Kiki, pregami di così, triste come il lunedì, voglio anche una linea. E quindi olè. E quindi olè. Olè. E cos'è? Ah, questa è la musica. Come cos'è? No. È la musica di sottofondo. L'hai messa tua. L'ho messa io. Ah, ok. Okay. Siamo tornati in diretta e sono arrivati tutti i membri di Brilla. Brilla. Gli facciamo un applauso. Applauso, applaudiamoci. Quanti siete? 2, 4, 6. Ne abbiamo 6. Ma siete tutti? No, no, non siamo. Quanti siete in realtà? Siamo il doppio. 13. Siamo 12, 13. 13. Ok, quindi concederò 35 secondi a ciascuno. E la successione della presentazione di ciascuno sarà fatta così, come quando si gioca al parte lui. Bene. Vai. Nome, cognome, chi sei, cosa fai? Io sono Mezze Legre. Avvicinati per favore. Nasco principalmente come musicista e faccio parte quindi poi di questa associazione, chiamato in realtà un po' all'ultimo, perché sanno che comunque mi piace girare video, montare, fare queste cose qua, e quindi mi occuperò un po' di questo. Ok. E farò questa cosa anche qua in radio. Ti occuperai un po' di questo perché in mano nessuno vede, ma hai una? Una videocamera. Ok. Del 2008. 2008. Sì. Infatti ho visto, mi ricorda... C'è anche il dischetto qua. Dischetto. Okay, lo vogliamo vedere? No, lo stai registrando. Ok, continuiamo con il gioco del mi tappo gli occhi con la penna, vado su. Micole. Io sono Micole, lavoro in un'etichetta discografica che si chiama Maplet, faccio ufficio stampa che si chiama Astralway e organizzo insieme a un'altra ragazza, Falana, che è una serie di eventi in cui mettiamo insieme varie tipologie d'arte, ed è per questo che ci siamo, sia io che Matilde Scalco, che l'altra ragazza che come fa Falana, ci siamo messe all'interno di Brilla, perché alla fine è un po' un collettivo di realtà. Ok, continuiamo. Tappo gli occhi. È la volta di Fabrizio. Io. Allora, io mi chiamo Fabrizio Scarcella, in arte ben peggio, e... Nasco pure come musicista, okay. ma neanche così bravo nella musica. Allora, la nasce musicista in mano a una? Allora, io sono una chitarra. Ok. Io sono. Ho chiesto io di portarla perché l'ho sentito sabato scorso. Lo risentiamo anche oggi? Sì, sì. E niente, faccio il presidente, perché sono quello che sa fare meno di tutti, quindi sono il presidente. Perfetto. Ho fatto il gruppo WhatsApp. ci vuole arte e impegno per questa cosa. Ok. Anche per creare gruppi WhatsApp. Assolutamente sì. Ne ho fatto uno oggi io e mi sento stanchissima. Continuiamo. ci sono rimasti. Edoardo. Ciao, mi chiamo Edoardo Vilella, sono un pianista, consiglio dischi su Instagram. E hai in mano un? Ho in mano un paio di pantaloni da yoga. No, ce l'ho in tasca, l'ho lasciato negli altri pantaloni. Dicevi, scusa. Consiglio dischi su Instagram è un podcast che parla di artisti emergenti, quindi la sensazione, la volontà di far un po' coinfluire diversi tipi di arti, insomma, mi sono ritrovato bene con Brilla e poi ho Fabrizio che è un presidente incredibile che... Okay. Ho dovuto seguirlo per forza. Quindi sei molto più serio di tutti noi messi insieme? No, assolutamente no. Anzi. Noi che siamo qui in radio. No. In realtà la radio è il mio sogno, sono qua, anzi, sono un po' emozionato, mi piace. Wow, che bel momento. Adesso sono rimasti. Vabbè, chi parte? Vai. Vado chi io. Chi parte? Ciao a tutti, io sono Giulio e a differenza dei miei colleghi non faccio assolutamente un cazzo e sono qui perché non avevo niente da fare e ho detto perché no. Cioè, però sei dentro Brilla. Sono dentro Brilla, sì, esatto. Ma io ci tenevo a dire che sono con la NASPI. Anch'io, esatto, quindi sì, che stavamo qui e quindi con questa voglia di fare, dato il nulla da fare, okay. Mi sono rimboccato le maniche, ho detto dai, metto la mia laurea in lettere a disposizione. Ma da quando è che avete iniziato a fare qualcosa che non sapete cosa sia? Da sabato? No, venerdì. Era venerdì, caffè e vero. Sì, venerdì. Voglio sapere la genesi di questa cosa, cioè l'inizio. Come è nato? La mia storia con Brilla è nata al bar, ovviamente, quindi ci siamo trovati con Fabrizio, Micol e Carol, che abbiamo detto noi vorremmo aprire un bar, fare una sorta di associazione. E lui ha detto, anche noi vorremmo farlo e quindi ci hanno aggiunto al gruppo di WhatsApp. Meno male che è stato fatto il gruppo di WhatsApp, vedi, cioè il fondamento è creato. Il gruppo di WhatsApp fa nascere tutto il resto. Fa nascere tutto quello che ci serve. Okay. Mi è venuta un'idea Brilla. Carol, mancavi solo tu. Eccomi, io sono Carol Graziani e come Giulio sono entrata dentro appunto l'associazione Brilla chiacchierando e esprimendo la mia necessità di trovare un posto dove fare delle cose perché sono o vorrei essere comunque un artista e ero alla ricerca appunto di un posto dove poter creare dei laboratori e dei luoghi dove poter scambiare questi interessi e progredire. Potreste averlo detto perché si è parlato di bar poco fa, sì. E poi hai detto posto, ma c'è un posto fisico che avete già pensato, battezzato? Allora, noi ci siamo dati come, diciamo, ci siamo detti, allora ragazzi siamo in 10-12, andiamo step by step. Ovviamente per fare qualsiasi cosa in questo mondo che conosciamo servono un po' di soldi E che quindi abbiamo che non abbiamo che non abbiamo, però conosciamo. Ok. Ma come, dopo tutte le stampe che hai venduto venerdì non avete tipo 4 mesi di affitto pronto? Le tue carte, diciamo. No. Ah, no. Neanche uno. Diciamo che manco la mia hai venduto, cazzo, me l'ha regalato. Stiamo sfruttando innanzitutto la nostra arte. Okay. Chi musica, chi conosce di lettere, di libri, chi di arte espositiva. Stiamo sfruttando innanzitutto noi per raccimolare un po' di soldi. Quindi abbiamo fatto questa prima serata al Casalone. E avete speso, che era di più autofinanziamento. Soldi di e credo che possiamo andarcene tutti in vacanza perché abbiamo sbancato. Perfetto. Non abbiamo pagato il professor Pasquini. Non ho capito perché. In effetti il mio cachet. Infatti, io quando ho visto quanti soldi abbiamo fatto, beh, ma chiamiamolo. No, ci ha chiamato in radio. Non le diciamo. Ok, quindi in tutto ciò, se qualcuno volesse aiutarvi e collaborare con la vostra associazione nascente... Ci avete chiamato troppo presto, però... Aspetta. Non esiste niente. Tu con la tua musica ti esibisci da qualche parte, hai detto sì, e quindi dove, come e quando lo farai? Adesso in radio... Adesso. Proprio adesso. Ok, quindi adesso. Dobbiamo creare il link assistente virtuale, createci un link grazie, per la... Noi... Anche la pagina su Instagram, comunque per abbiamo fatto una pagina nuova dove ci sono tutte le grafiche di Matilde Scacco, che al momento non è qua, ma... Complimenti per la grafica. Molto belle, infatti lei è bravissima. Mm-hmm. E niente, ha dato un po' il nome è scazzatissimo. giusto per curiosità. Brilla. Punto, è come brilla ma con l'accento sulla. Però l'Instagram è lavatoio artistico. Lavatoio. Ed è per questo che non si trova. Esatto. Perché uno cerca brilla e infatti trova era quella lavatoio la domanda, artistico. Io che mi piace il nome, ma c'è pure il sottotesto che è importantissimo. Lavatoio underscore da qualche parte? No. So cosa vuol dire. Detto questo, prepara una canzone che sta siccome fra un po' ci sono una le pubblicità triste, delle o felice. No, è la più triste che hai. Ah, grazie. Beh, è lunedì. Parliamo anche per di autofinanziamento, non può essere felice. Bisogna passare la musica di sottofondo. Io mi impegnerò al massimo, ma potrò fare una bella figura di me. Ma devo andare già? Vai. Prendo pure il testo, visto che ci sono. Prego, facciamo il jingle. C'ho questa qua. Vogliamo un jingle? Dai, ce l'ho. No, non c'è. Ce l'ha. Vedi, Simona, è una barca lontana. Mare deserto e buio, dove non nuotano i pensieri. Una tempesta di noi, il vento deciso e lontano, oltre ogni tuo sorriso amaro. Hai capito? Com'è che sei su Instagram? Che io mi chiamo Ben Peggio. Ben Peggio. Quando grazie, suono. Super, grazie. Grazie a te. Grazie, veramente. Perché invece mi è arrivato un nuovo pezzo di Cespu, che fra l'altro era venerdì, lo conoscete Cespu, quello che ha fatto Garisenda? era, c'era venerdì. Infatti io mentre parlavo ho detto, quello lo conosco. Io me lo ricordo. Ed è, lui è venuto, è un cantante che ha fatto un pezzo che si chiama Grisenda, che sta andando fortissimo, e adesso ha fatto un pezzo nuovo invece che si chiama Pam, che da questo è uscito il 9, per cui infatti il suo manager mi ha detto, mi raccomando non mandarlo lunedì scorso, ma non c'eravamo, per cui eravamo tranquilli. No, no, io di sicuro no. Esatto, no. E dunque lo mandiamo adesso. Si chiama Pam. Vengo io a mandarlo. Certo. Guarda, è facile. Apri questo e clicchi Pam. Mi sono innamorato della cassiera del supermercato e adesso c'ho la testa che fa pam pam pam. E quando mi dà il resto vorrei fosse un pretesto per chiederle di più, te lo fai un drum. E c'è un carrello di cose da dirti, ma ho imparato a riempire i sacchetti, puntualmente sbaglio il numero. Lo salverò in rubrica subito, mi sono innamorato della cassiera del supermercato e adesso c'ho la testa che fa pam pam pam. E quando mi dà il resto vorrei fosse un pretesto per chiederle di più, te lo fai un drum. E parliamo tra queste corsie mentre mi mostri le tue, vorrei mostrarti le mie ma devi andare a fare le pulizie, dai facciamole assieme. Sono innamorato, ma pensate che caso, succede in media al giorno circa 7 volte, sai. Forse è troppo scontato, come quel vino da 2 euro che tanto non vorrai, no, non berrai. E c'ho un carrello di cose da dirti, ma ho imparato a riempire i sacchetti, puntualmente sbaglio il numero. Lo salverò in rubrica subito, mi sono innamorato della cassiera del supermercato e adesso c'ho la testa che fa pam pam pam. E quando mi dà il resto vorrei fosse un pretesto per chiederle di più, te lo fai un drum. E balliamo tra queste corsie mentre mi mostri le tue, vorrei mostrarti le mie ma devi andare a fare le pulizie, dai facciamole assieme. Gli straordinari non ti preoccupare, solo che ti han vista bene la mia testa che fa pam pam pam. Perché sei legale come una pistola puntata al cuore che fa pam pam pam pam pam pam. Mi sono innamorato della cassiera del supermercato e adesso c'ho la testa che fa pam pam pam. E quando mi dà il resto vorrei fosse un pretesto per chiederle di più, te lo fai un drum. E balliamo tra queste corsie mentre mi mostri le tue, vorrei mostrarti le mie ma devi andare a fare le pulizie, dai facciamole assieme, dai scopriamo per bene, pam pam pam. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. Ma cos'è questo casino che fanno questi? Ma perché li abbiamo chiamati questi ospiti? Entrare in situazione che c'ha anche qua. Siamo tornati, no? Ma sì, continuate pure. No, ma in effetti era interessante. No. Sto dicendo cose pericolose. Finanziarie. Ah, ok. Sì, certo, perché autofinanziarie. E dunque che cosa succede? Cioè, ma cercherete un posto stabile, tipo dove poter fare le cose? Sì, okay. Assolutamente. Sì, diciamo che ci siamo. E poi cosa farete una volta che ce l'avrete? Cosa faremo? Tante attività, direi, no? Vorrei tante attività, anche attività magari diurne, non solo serali, per non appunto contrapporci ai locali che ci sono già a Bologna, avevamo pensato. E poi comunque ognuno di noi ha delle realtà che sono magari simili e vicine, ma anche distinte da proporre, quindi al lato artistico, musicale. Poi soprattutto anche un altro degli intenti è quello di... Cioè noi ci aspettiamo che la gente venga, la gente come noi, ragazzi, ragazze che vogliono proporre qualcosa, cioè noi speriamo dopo un po' di non fare più niente, di accogliere le proposte. Okay. Sì, diciamo che il sentimento un po' più che ci accomuna di brillare del lavatoio artistico, cioè perché si chiama lavatoio artistico, in effetti ha senso dirlo. Cioè l'idea è quella che tu passi una giornata tra lavoro, affitto, bollette, tutte le varie vicissitudini della giornata, poi entri in un posto dove sei circondato da diverse forme d'arte, perché non è solo musica, cioè noi siamo musicisti, ma ci sono anche talk, ci sono le arti espositive, insomma, e tu sei circondato e ti lavi, quindi ne esci pulito. Contemporaneamente, tra l'altro. Quindi da una parte c'è un laboratorio di devi seguirlo di un po'. E dall'altra c'è nella prima pianista. Esatto, nella prima serata che abbiamo fatto venerdì c'erano l'esposizione, c'erano i banchetti, c'era il talk, c'erano tre eventi live in acustico, c'era il DJ set. Però c'era un senso di comune, c'era un ragazzo che mi ha fatto impazzire, che se n'è andato ha detto: io questa realtà non la conoscevo, ne ho esplorato un po', ma qua mi sento a casa. Io ci vuole lacrime, perché cioè, è una bellissima sensazione per una persona che non conosciamo. Certo. Quindi vuol dire che per un attimo, per una sera abbiamo creato una casa, e quello che vogliamo fare con una nostra casa è ampliarla, questa casa. Questo in tutta la giornata avendo un posto fisico. Ma quanto è durato questo evento di venerdì invece? No, noi siamo stati 12 ore. È finito ore, adesso. Se calcoli il postumi è finito l'altro ieri. Diciamo che sì, è stato aperto al pubblico alle 8:30. Sì. Prima c'era una compagnia teatrale. E noi siamo partiti alle 8:30, abbiamo finito alle 3:30. Wow. 4. C'eravate tutti, compresi anche i ragazzi e le ragazze che mancano. Sì, sì, manca un'altra bella metà. Tutta la mano d'opera che serviva. Parlavamo di laboratori poco fa, l'hai detto sì, quando ti sei presentata e anche adesso. Sono curiosa di sapere che tipo di laboratori. Allora, l'idea potrebbe essere interessante accettare qualsiasi tipo di idea che arriva dall'esterno. La mia idea personale è di poter portare al mondo della stampa, perché io ho studiato incisione in accademia e infatti Stefano è stato uno dei miei insegnanti, il mio preferito. Il suo preferito? Ma questo non l'ha neanche sentito. Lo ripeteremo come un eco. L'insegnante preferito di Carol. Niente, continua a spiegare regia Lisa. Infatti, dicevamo? Penso che attualmente sia una pratica sottovalutata. Ha perso l'occasione, scusami, ha perso l'occasione, abbiamo detto quattro volte. Sei il mio insegnante preferito. Chi, io? Sì. Ah, Carol continua, grazie. Non vi stavo ascoltando. No, anche perché vi dobbiamo interrompere, perché adesso c'è l'angolo della menzione. Giusto, un momentino. L'angolo della menzione. Eccoci qua. Ha inaugurato oggi a Palazzo Paltroni, ferma quello, grazie, sede della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la mostra fotografica e documentaria Cinemovel in viaggio con Io Capitano, a cura di Silvia Camporesi, con fotografie di Nicolò Barca e Andrea Fiumana e un video di Thomas Pilani, un racconto visivo sul cinema itinerante che in Senegal ha proiettato il film Io Capitano di Matteo Garrone nelle città, nelle periferie e nelle scuole del paese, un viaggio attraverso storie di migrazione e speranza, proiettando il film in quei luoghi dove le storie stesse sono nate. La mostra è su fino all'8 giugno 2025 a ingresso libero gratuito a Palazzo Paltroni alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in via delle Donzelle 2 a Bologna. Riesci a fare anche a leggere anche? Capito. Grande. Incredibile. Invece mercoledì 21 maggio alle ore 18 al Modo Info Shop c'è Babbo dove sei? Un libro di Francesca Germandi. L'artista ripercorre la vita di Quinto Germandi, padre dell'autrice, scultore, rappresentante della corrente dell'arte informale. Un'autobiografia con parole, disegni e fotografie che si mescolano, restituendo il ritratto intimo e ironico di una figura sfuggente, un artista carismatico e anticonformista. Questo in via Mascarella 24B a Bologna. Nel frattempo passa anche un aereo. Mercoledì 21 maggio dalle 18:30 prende il via Closer, Becoming the City, la rassegna di Bologna Estate 2025 che attraverso i linguaggi dell'arte indaga le relazioni contemporanee, in un programma diffuso tra maggio e luglio curato da Merigo Mariotti e Giorgia Tronconi, co-direttori artistici di Adiacenze. Adiacenze, ci siamo già stati. La kermesse apre ufficialmente al pubblico con Asymmetric Vision, workshop presentazione sull'architettura investigativa condotto da Tarek Tamimi di Liminal, gruppo di ricerca del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, con una videoinstallazione visitabile fino al 27 maggio. Padiglione Esprit Nouveau, Piazza Costituzione 11 a Bologna. giovedì 22 maggio alle 18 all'interno dell'Osservatorio sull'Arte del Museo Lercaro inaugura Mia Madre Supernova, I Will Arise and Go Now, una doppia personale di Raniero Bittante e Massimiliano Fabbri, che è un pittore fantastico, a cura di Serena Simoni, un progetto che presenta opere dedicate a uno dei grandi rimossi del contemporaneo, ovvero la decadenza dei corpi e la perdita dell'identità. I due artisti, accomunati da una storia familiare simile, prendersi cura di madri affette da Alzheimer e Parkinson, affrontano l'incomunicabile in una mostra difficile e coraggiosa. Tutto questo al Museo d'Arte Lercaro in via Rivareno 57 a Bologna. Mentre giovedì 22 maggio 2025 alle ore 18 si tiene presso la biblioteca Mambo, Museo Morandi, la presentazione del libro Water of Writing di Maurizio Ossi, edito da Cicchino Brigante. Cicchino. Yes. È difficile. Oggi è tosta, ragazzi. Oggi è tosta. In dialogo con l'artista intervengono Lorenzo Balbi, direttore Mambo, Alessandra Acocella, docente di storia dell'arte contemporanea all'Università degli Studi di Parma, Pasquale Fameli, docente di storia dell'arte contemporanea all'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Marcello Pertolla e Alessandro Mescoli. Editori. Tutto questo nella biblioteca del Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, in via Don Bizzoni 14. Giovedì 22 maggio dalle 18 alle 22, Another Chance, mostra personale di Friedrich Andreoni, a cura di Giulia Giacomelli. Il progetto espositivo è l'esito della residenza di Friedrich Andreoni ed Alchemilla nell'ambito del progetto Residenze Studio 2025, ideato da Alchemilla e realizzato grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e della Fondazione Zucchelli, fino al 31 maggio a Palazzo Vizzani, via Santo Stefano 43 a Bologna. E ci hanno spedito un file sonoro che ascoltiamo. Ascoltiamolo. Another Chance, mostra di Friedrich Andreoni, a cura di Giulia Giacomelli, Palazzo Vizzani, Lambertini e Sanguinetti, dal 22 maggio al 31 maggio 2025. Rodia, nel silenzio dei suoi pensieri, chiede: è finita? Una domanda che attraversa il tempo, ma che non riceve mai una risposta definitiva. Non si riferisce solo alla fine di una relazione o al passaggio di un momento, ma alla continua negoziazione di distanza, memoria e cambiamento. Bernard risponde: non finisce mai, cambia soltanto forma. Questa mostra è il risultato di una ricerca sulla memoria e sulle tracce rimaste nell'indelebile temporaneo del palazzo, della sua storia e di coloro che hanno vissuto le sue stanze, evocando una verità che può essere solo immaginata e mai posseduta del tutto. La mostra si inaugurerà giovedì 22 maggio 2025 alle 18 e resterà aperta fino al 31 maggio. Mi sta invogliando ad andare all'inaugurazione. Gli orari di apertura variano. Info a info@alchemilla43.it. Dai, è stata un'esperienza trascendenziale. Ma non è finita, perché domenica 25 maggio alle ore 18 la Fondazione Museo Ettore Guattelli di Ozzano Taro, in provincia di Parma, in occasione di Guattelli Contemporaneo 2025, presenta Luca Rossi con Allenare Nuovi Occhi, un intervento per ripensare il museo e l'opera nel contesto dell'arte contemporanea. L'artista critico e teorico propone un momento di dibattito e di interazione con il pubblico sul tema della percezione e della consapevolezza nel sistema dell'arte, in cui gli artisti si trovano a subire le pressioni della critica, delle istituzioni e del mercato. Tutto questo al Museo Ettore Guattelli in via Nazionale 130 a Ozzano Taro, in provincia di Collecchio, che è in provincia di Parma, che è in provincia di Emilia Romagna, sì, che è in provincia, provincia di Italia. Italia. Grazie. Abbiamo finito le menzioni, per cui possiamo ricominciare a parlare. In realtà, mi abbasso un po' la musica. Po' in la realtà musica. C'è un piccolo, una piccola una aggiunta, postilla. Una piccola aggiunta per domani sera, 20 maggio, vedi? Alle ore 19 a Spazio Labo, c'è un incontro con Filippo Barbero e la presentazione del suo progetto Borderland in conversazione con Laura De Marco. In questa occasione verrà presentato anche il suo libro, che è edito da Witty Books. Wow. Yuppi, fine. Sì, di questa giornata. Altro di questi. Hai capito? Mentre leggevamo le ultime menzioni, guardavo il nostro Giulio Paoli, sì. Che mi ricordava tantissimo qualcuno. E poi mi è venuto in mente Willy Wonka, Gene Wilder. Assolutamente. Sono pieno di cioccolato. Dov'è? Quindi sarà sciolto, sarà morto in questo momento. Benissimo, quindi torniamo a noi. Stavamo dicendo che Carole Laboratori, Giulio, te l'ho chiesto cosa proporrai niente, al nostro, io l'ho detto sì, prima che ogni tanto ecco invita perché della gente inopportuna, esatto, a parlare, tra cui Stefano che ho invitato a parlare dei suoi lavori, del suo essere artista venerdì quindi ho intervistato intervista. In realtà l'ha fatto solo perché sapeva che poi avrei invitato tutta Brilla radio, in realtà no, cioè, era ciò che speravamo che non succedesse, esatto. e invece siccome anzi salutiamo la Giulia Giacomelli che ci ha tirato il pacco che doveva venire qua. Giusto, c'è sempre la bellissima, grazie. Aggiungiamo la menzione pacco. È bene sapere che siete un ripiego, però sì, siete tanti e grazie. Cosa facciamo? Ascoltiamo un'altra canzone di Fabrizio oppure no, dimmi tu. Fabrizio. No, andiamo avanti. Come no? No, era quella più bella, io pensavo una. Ce l'hai un'altra canzone, lo sappiamo tutti. È quella dove dici la parolaccia. Quella parolacce è parolacce. Ho detto che puoi. Puoi, non te la senti. No, se non hai voglia, no. Non è che no, se hai no, 30 secondi per prepararti la canzone, mi col tu, come ha detto stampa invece. Ups, che è successo qua? Micol, come ha detta stampa invece? Solo detta stampa o fai qualcosa? No, in realtà quello lo faccio nella vita. Ah, ok. E qui invece come ti inserisci? Porti laboratori, porti musica, anche tu canti. Io sono una musicista, ma mi ma definisco... Non lo deve sapere nessuno. Esatto, ma più appassionata di musica forse. E in Brilla porto principalmente appunto questo progetto che ho con Matilde Scalco che si chiama Falana. Okay, e quindi diciamo che è un portare quello che abbiamo sempre fatto in giro in quella che speriamo un giorno sarà la nostra nuova casa. Perché non abbiamo mai avuto una casa se non inizialmente, perché effettivamente Falana è iniziato dentro il salotto di casa nostra. Vabbè, certo che... Come spesso succede. Grazie mille. Abbiamo la canzone da queste parti? Siamo prontissimi. Sempre triste. Addirittura triste, con anche gli accordi. Se non è triste, vedo, non la vogliamo. Allora, le ho scritte... Io sono di Matera, sono sceso a Matera, siccome ero da solo, ho scritto queste canzoni. Cioè, ti è scattata la felicità e hai scritto poi queste canzoni. Poi pioveva a Matera. A Matera non piove, non c'è, siccità. Non ci sono le nuvole. Infatti. Incredibile, sono tornato. Che faccio? Suono? Suono. Prego. Nell'inferno che c'è. pesante, ma mi farà bene. Verrà la notte scura, verrà per dirci di andarcene via. Come in un incubo antico, pieno di fumo e di stanze gelate. Donna di nuvole panne, ci andremo a nascondere ora, ora che cadono bombe, proprio qui sopra le nostre bocche. Wow! Grazie. Per finale. Complimenti. Yeah. Se caga, è che non c'ho le cuffie. Bellissimo. Io volevo dire questa cosa, che oggi posso fare un live su Instagram grazie al fatto che Lisa Mignemi sta facendo la regia per la prima volta. Supervisionata da grande Lisa. Siamo ancora tutti vivi, non è esploso nulla. Ah, perché però c'è quel pulsante rosso là. Comunque, dai. Abbiamo ancora 10 minuti. Ok. Ah, sì, no, in realtà quello che non sai è che bisogna concludere più o meno ai 55, perché vabbè, poi certo, ci vuole c'è la Marco finale. Roma in tutto ciò, Marco Roma. Marco Roma. Ah, cavolo, è vero. Ci eravamo dimenticati di Marco Roma. No, assolutamente, era. Non si può. Vai. Sì, sì, sì. No, no. Aspetta che io ho solo due mani. Qui è tutto così oggi, è tutto a cazzo. Avevamo appena detto che era tutto a posto. Ti ho detto, mancano 10 minuti. In 10 minuti cosa sai potrebbe quante mai cose andare succedono. Storto? Okay. Il pulsante tipo, d'emergenza. Tipo il tablet che non funziona. Il tablet che rimane spento. Dai, su. Ecco, quindi, eccoci. No. Si è sbagliato. Adesso riusciamo anche ad ascoltare Marco Roma. Vai. Forse. Buongiorno, io voglio te, l'ho deciso nel mio cuore, nella mente voglio te, spero che tu mi amerai, da Marco Roma, buongiorno. Un applauso a Marco Roma. Questo è stato un bellissimo momento di condivisione cuffia, sì. Dove Carole e Nicole si spartivano un orecchio per una. Perché non si sente? Ah no! Si sente poco. Sì. Però ve lo siete sì, goduti. Lo siamo domani tantissimo. Potreste ascoltare la puntata in differita per godervi il Marco Roma nel finale, no? Esatto. Così come tutti gli altri che forse in questo su momento. Su www.coxospaziale.blogspot.com. Ok. Ma lui dovrebbe entrare dentro la nostra associazione, forse. Marco Roma, attenzione che. Chiamatelo! Che risponde. No. Esatto. Sembra interessante. Il numero ce l'abbiamo. Visto che tutte le settimane manda un messaggio cantato, certo, salvato come Marco Roma che canta nei vocali. Perfetto, bene. Quindi chiacchierone, tocca a te. Addirittura d'arrivo, facciamo passare questo aereo simpaticissimo, tipo il terzo. Stacchetto. Ma questo è un sottofondo che metti tu, dillo. Sì, certo, è l'ho messo io l'audio. Io ho visto che programmavate lo stacco, la sì, causa, sì, la sì, sigla, c'è una... aereo. Okay. Aereo rumoroso e fastidioso. Perfetto, perché poi c'è anche quello meno rumoroso. Vabbè, ma torniamo a noi. Prossimo evento, prossima cosa, prossima idea. Quando è? Com'è? Allora, abbiamo preparato delle serate, delle serate in mente. Ok. Ci abbiamo i programmi, però la data è ancora da stabilire. Siamo tra in contatto. Fine giugno e luglio comunque. Sì, ok, periodo è quello. abbiamo detto dove vi trovano su Instagram. Seguiteci, ok, lo comunicherete lì su Instagram come Lavatoio Artistico. Avete solo vabbè Facebook? Abbiamo anche Facebook dove pubblichiamo gli eventi, ma se ma fate dirette robe troppo sbatti, sei fuori. Ci riprendiamo solo sulla telecamera di Messi, rigorosamente dal 2008 in giù. Le tecnologie più usate del 2008 hanno deciso di non usarlo. Okay, comunque niente. Fuga Penata ha detto buona. Ah, grazie. No, perché abbiamo degli ascoltatori che volevano vedere la faccia della bionda, perché in effetti era sempre di schiena. Abbiamo portato a casa anche oggi. Senti, ma il papà non ha messaggiato? Il papà? No, no, ma ci stanno ascoltando, sia la mamma che il papà. Ok. Sì. Beh, saluto. Sì, Antonio. Sì. Grande. Poi, vedo dei Teletubbies là. Chi li ha disegnati, voi artisti? Qualcuno dei vostri? Sulla maglietta di Metz? No. Come no? No, noi disegniamo molto peggio. Lei mi ha fatto e dei disegni dei vostri tatuaggi invece? Ditemi che sono lei vostri. Tatua. Lei tatua. Lei tatua. Se fossi ha fatto questa baguette con le gambe. Bellissima. Bella. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. La donna dell'Amaro Lucano in topless. Noi ci siamo conosciuti per questo motivo inizialmente. Okay. Sì, loro suonavano e io li ho tatuati, quindi se adesso non sono. Mentre suonavano? Non sono piacevoli alla vista, è tutta colpa mia. Ho anche tatuato la faccia di mezza, è l'unica faccia che ho tatuato nella mia vita e che non tatuerò mai più. Ah, wow! È laboratorio di tatuaggi, cose di questo tipo? No, non si può fare. No, non si può fare. Sicuramente potrebbe essere un modo magari per farmi conoscere, ma. No. Ma tipo di disegno artistico per tatuaggio si potrebbe invece fare, ovviamente senza. Sì, è una cosa forse un po' complicata, perché penso che sia una cosa estremamente personale, sia l'idea del tatuaggio che del disegno. Non ho pensato alla possibilità di fare dei laboratori sul disegno. Io sono più interessata all'idea di stampa come concetto di laboratorio comune con più persone, perché il disegno secondo me è una cosa molto più intima. È quello che insegna. Okay. Ah, ma sono io che non ho mai assistito irregolarmente della tua lezione. Dovrei un giorno infilarmi. No, ma è tutto falso. È tutto falso. Alla fine sono gli studenti che insegnano a Stefano Pasquini. Non sanno quello che dicono. Ma io un giorno arriverò e farò la studentessa. Viene a fare incisione punk. Ma guarda, perfetto. Puoi anche venire a insegnare perché. Addirittura. Perfetto. Questo è il livello comunque. Come ti permetti? Si può solo fare di meglio. Ma. O ben peggio. O ben peggio. Attenzione che ti lascio in regia da sola per sempre. No, ormai da tutti li ho presi. Testo rosso, fai esplodere la radio. Beh, sono io, i 57. Cavoli, allora dobbiamo con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo. È andata così, sbatto di fuori. È finita così. Non vedevi l'ora, dillo. Non abbiamo salutato. Ciao caro. Salutiamo. Sosteneteli. Aiutateci. Cosa succede? Qualcosa non va. Mi fa venire il vomito la realtà. Ah. Cosa succede? Qualcosa non va. Prenoto il dermatologo, vado dallo psicologo, e poi mi viene il vomito, e poi mi viene il vomito, e vado dal neurologo, perché ho il livello alcolico, e poi mi viene il vomito, e poi mi viene il vomito, e vado dal neurologo, prenoto il dermatologo. Dall'urologo perché ho l'uccello alcolico e poi mi viene il tipo le cose che dici.